Un autore latino, Giovenale, in una sua satira scrive «Facit indignatio versum», è lo sdegno che ispira versi. In effetti, lo sdegno è un buon motore per la scrittura, in versi o in prosa. Bianciardi descrisse la sua vita agra come, sono parole sue, la storia di una sonora incazzatura. E lo stesso forse si potrebbe dire della nostra Divina Commedia. Dante, secondo me, era terribilmente incazzato quando scrisse la Divina Commedia. E da femminista mi scuso, prima di tutto con me stessa, per usare un termine così fallocentrico. Fatto sta che se la letteratura e la poesia sono anche una forma di critica della realtà, si protesta di fatto ogni volta che si decide di scrivere, perché la scrittura è in se stessa una forma di risarcimento. Scrivo quel che mi sfugge o mi è sfuggito, scrivo per dare forma a quello che non ce l'ha, scrivo per un atto di denuncia. Scrivo sempre perché si sappia qualcosa o intorno a qualcosa. Quanto al mio Game of Society, io vedo nella società una forma più o meno raffinata di violenza organizzata e vedo me come oggetto all'interno di una certa meccanicistica, di dinamiche che mi prescindono in parte o del tutto. Per questo ho usato all'interno dei miei testi alcuni termini propri delle teorie dei giochi. E poi perché il gioco in se stesso ha qualche cosa di inquietante. Qualcuno vince, qualcuno perde, ma non si sa mai bene perché. E quando c'è in gioco la vita, insomma, è un'altra cosa. E allora viene fuori la nanche greca, il volto inquietante della Moira, il caso che non ti risponde mai quando lo interpelli. Insomma, un'eziologia della sfiga. E se non siamo o non sono che parte di un grande gioco, ma di un gioco violento a danno di molti, allora io credo sia necessario, come diceva Primo Levi, fare di noi, di ciascuno di noi, atto di testimonianza. Del resto anche il mio Game of Society è la storia di una incazzatura. Ero terribilmente incacchiata quando lo scrissi. Ma, o forse ero solo triste, che poi è l'incazzatura senza verve. Comunque c'è un certo prometeismo quando si scrive, sempre. Perché per scrivere bisogna incidere qualcosa su qualcos'altro, che sia pietra, muro o carta. Bisogna alzare quella flebile voce di cui parlava Pasolini. E poi perché, per citare una donna potente, Audre Lorde, non bisogna buttare via nulla, bella, nemmeno il dolore, soprattutto il dolore. E allora vale la pena scrivere di questo e dei giochi della società, penso.